A tempo di sport. Di nuovo insieme dunque, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, a tempo di sport trattino radio 24 per scrivere sulla nostra pagina Facebook oppure via Twitter chiocciola Capuano Joe. Intanto io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni che sta curando la parte tecnica, e buon pomeriggio anche a Graziano Cesari. Buon pomeriggio a voi. Ciao Graziano, buon pomeriggio. Ciao. Intanto sottolineo che per la seconda volta consecutiva hai sbagliato la previsione sull'arbitro del big match, ma questa volta non avevo preso nemmeno io, neanche l'altra volta, a dire la verità. Purtroppo sì, abbiamo sbagliato, ma abbiamo visto che forse era meglio mandare Orsato che Tagliavento. Sì, in realtà nel secondo tempo ho l'impressione che abbia arbitrato di più Orsato nell'area della Juventus. Esatto. Quindi mezzo te lo do. Dai, chiudiamola, chiudiamola così. Senti, faccio una rapida rassegna stampa dei voti che i colleghi hanno dato sui principali quotidiani a Tagliavento e a Preti ieri. Si va dal 3 di Tutto Sport al 5 della Gazzetta dello Sport, che è il voto più alto. Tagliavento certamente penalizzato dalla brutta serata di Preti, che nel primo tempo ne ha combinati di tutti i colori. Ho l'impressione però che è la seconda partita che Tagliavento buca in questa stagione. Probabilmente non era l'arbitro ideale per questa serata. Assolutamente no, l'avevo ribadito in settimana, avevo sicuramente un arbitro molto più deciso come Orsato. Mi sembrava fuori condizione Tagliavento, ma mi sembrava perché la statistica sul curriculum, il suo rovinio di marcia di questo campionato, altamente deficitario. Comincia con un Bologna-Milan con un rigore concesso a Pattini assolutamente inventato, prosegue con un rigore concesso a Napoli nella trasferta al Ferrari contro i bucercati della Sampdoria e l'espulsione di Castaldello che era fuori dall'area, e finisce con Lazio-Milan con un gol di De Jong dato in fuorigioco. Quindi quattro partite di Tagliavento, tre errori grossolani. Sì, probabilmente c'era di meglio. Io ad esempio vorrei anche aprire con te il discorso su Rocchi, disastroso nella stagione scorsa, è pur sempre un arbitro quotatissimo a livello internazionale, per intenderci ha già fatto in questa stagione due gare di Champions League, compreso Barcellona Celtic ad esempio, nell'ultimo turno sta facendo benissimo perché non ha errori, probabilmente è arrivato il momento per lui di testarlo nuovamente su un big match. Assolutamente sì, devo dire che sono perfettamente d'accordo con questo tipo di indicazione. L'anno scorso disastroso, poi probabilmente inserito nell'elenco dei 52 arbitri preselezionati per il mondiale in Brasile, lo ha caricato tantissimo, sta facendo una stagione molto buona, non sono arrivati per lui match importanti, quindi il coefficiente di difficoltà è sempre minimo. Noi non rifaremo ovviamente la moviola di ieri sera perché c'è già scritto tutto sui giornali. Quello non che vuoi sapere il mio voto? Mi dai il voto allora di Tagliavento e di Preti? 4 e mezzo. Beh, stai nella forbice alta, 4 e mezzo come il Corriere dello Sport e La Stampa. Gli altri, Corriere della Sera 4, Repubblica 4, Tutto Sport, lo abbiamo detto, gli ha dato addirittura 3. Quello che vogliamo capire invece è un po' un giallo che a nostro parere vale la pena di provare ad approfondire, e cioè chi aveva detto se davvero la segnalazione fatta dal collega di Sky Andrea Paventi ieri nel corso della partita è corretta, chi aveva avvisato Preti pochi istanti dopo il gol del vantaggio della Juventus che Asamoah si trovava in fuorigioco. Facciamo così Graziano, ripartiamo proprio da quel frammento della telecronaca di Caressa e Bergomi con l'intervento di Paventi. Sì, a proposito, per ritornare su quel primo gol, Fabio, poi lo vedremo anche nel post partita, però insomma le indiscrezioni che abbiamo raccolto ci dicono che insomma molti giocatori, anche la panchina dell'Inter, nel momento del gol della Juventus avrebbe sentito comunque poi il guardaline dire in auricolare a Tagliavento che era rigore per ben due volte, che era fuori gioco. Esattamente, che era fuori gioco per ben due volte, e quindi Tagliavento a quel punto avrebbe sentito e avrebbe deciso diversamente. Quindi noi non possiamo dire. Cioè sul gol della Juventus? A un certo punto il guardalini avrebbe detto dopo il gol a Tagliavento che era in fuori gioco, ma questo lo dicono i giocatori, noi non possiamo saperlo. Cioè, questa è un'informazione che Andrea ha raccolto, quindi è giusto che la dica, ma mi sembra o ha ammesso l'errore poi più tardi, ma insomma, non abbiamo giudizi, non abbiamo possibilità di giudicare questa cosa perché sono voci riportate. Allora, questa è la diretta, Graziano. Nel dopo partita Stramaccioni non ha smentito questa ricostruzione di Andrea Praventi e di Sky, anche se non l'ha voluta confermare. E allora la domanda che io ti faccio, che mi sembra nessuno si sia posto oggi, è chi aveva avvisato Preti dell'errore, tanto da indurlo a chiamare Tagliavento per chiedergli di cambiare la decisione? E allora te lo posso svelare con assoluta certezza, sono le telecamere dedicate di Mediaset Premium su Stramaccioni. Si vede chiaramente arrivare con l'iPad Varese, allenatore in seconda, che informa Stramaccioni che il gol è assolutamente irregolare, e Varese dice a Stramaccioni: è irregolare di un metro. Dopodiché l'allenatore è stato molto bravo, a questo punto protesta e va verso il quarto uomo, e il quarto uomo comunica via autoricolare che Stramaccioni sta protestando per il gol irregolare di un metro. Oh, però Graziano, questa è la ricostruzione. Io credo non sfugga anche a te che siamo di fronte a una prima volta. Perché che un quarto uomo si senta autorizzato ad avvisare l'assistente di linea coinvolto nell'episodio che una moviola di parte, perché l'iPad di Beppe Baresi, con tutto il rispetto, è una moviola di parte, ha segnalato che il gol partiva da un'azione viziata da fuorigioco. Io onestamente a memoria non trovo un precedente. No, assolutamente no, se non per la finale quando l'espulsione di Zidane, no? Vista sulla telecamera, vista sul monitor, quindi assolutissimamente no, lo ricordiamo tranquillamente. Questo è il primo episodio di un utilizzo di una moviola assolutamente, o di una comunicazione meccanica assolutamente impropria. Certo, non ha fatto un grandissimo lavoro il quarto uomo informando e condizionando così tutto il proseguo della partita. Sì, è l'ennesimo errore di questa partita. Tra l'altro io ti chiedo se non sia vietato portare a bordo campo qualunque strumento possa rimandare le immagini della partita. Se non sbaglio, anche i colleghi che sono bordocampisti hanno il divieto di comunicare alle panchine ufficialmente che cosa sentono in cuffia sulla moviola, che viene ovviamente fatta istantaneamente, degli episodi più controversi. Guarda, è tutto vietato, ma purtroppo non si riesce a eliminare questo tipo di problema. Le telecamere, per esempio, negli spogliatoi non dovrebbero avere l'audio, invece anche l'audio è acceso, quindi è tutto un problema che nasce alla base. Ci sono tante situazioni e le televisioni fanno il loro diritto di cronaca, tengono notizia, però chiaramente poi si condiziona assolutamente tutto. Sì, quindi siamo a un assurdo. Non solo i sei che decidono sono gli unici a non sapere in tempo reale se hanno preso la decisione giusta o sbagliata, ma addirittura a questo punto non soltanto la moviola entra come ospite incomodo in queste situazioni, in queste che io ormai ho ribattezzato quasi delle riunioni di condominio, delle assemblee di condominio, ma c'è qualcuno che può permettere, perché questo ha fatto il quarto uomo ieri sera a Torino, che una segnalazione di parte diventi, senza il filtro di una sua valutazione, perché io immagino che il quarto uomo non si sia soffermato ad osservare con Baresi l'immagine sull'iPad del vice allenatore dell'Inter, diventi a questo punto una verità tale per cui un assistente di linea chiama l'arbitro chiedendogli di cambiare una decisione. Io arrivo a dirti un paradosso, Graziano. Certo. Ha fatto bene Tagliavento a questo punto a proseguire con l'assegnazione del gol, perché se questa era la genesi del cambio di una decisione, meno male che Tagliavento ha continuato a sbagliare. Sicuramente è una contraddizione, meno male che ha fatto così, allora andiamo in questo modo. Però poi dobbiamo dire che dopo i 18 secondi, per tutto il restante tempo, abbiamo visto un arbitraggio veramente allucinante, perché le decisioni poi sono state sconcertanti. Quindi significa che il mezzo meccanico ha prodotto un devastamento totale nella mente di questi arbitri. E quindi anche poi io credo la difficoltà a gestire un errore di quel peso dopo 18 secondi ci sarà da riflettere. Io credo sia perché per la prima volta abbiamo visto un intervallo, il calcio d'inizio del secondo tempo è arrivato al 14° minuto, quindi chissà cosa è successo nell'intervallo negli spogliatoi. Sì, tra l'altro Cassano non era da cartellino rosso perché ha dato del fenomeno all'arbitro. Bene, fenomeno, insomma, non credo che sia poi un'offesa così grande. Ci sono dei giocatori che sono diventati fenomeni. Si fa di peggio, si fa di peggio, tu dici. Si fa di peggio, voglio dire, quando i baffi non vengono puliti, il fenomeno mi sembra quasi un elegante etichetto. Va bene, allora noi ci fermiamo, un minuto di traffico, vi abbiamo svelato grazie a Graziano Cesari questo retroscena di che cosa è successo ieri a Torino, dove dunque la moviola è stata usata addirittura dalla panchina dell'Inter e per questo l'assistente di linea di Tagliavento aveva chiesto di cambiare la decisione sul gol del vantaggio della Juventus. Ci fermiamo, un minuto di traffico, poi torniamo con gli episodi di oggi. Intanto c'è Montella ai microfoni di Sky Sport, sentiamolo. Da qui al proseguo del campionato, però oggi la squadra ha avuto una buonissima reazione, perché nel primo tempo non avevamo fatto un buon primo tempo, dove avevamo sofferto sicuramente l'intensità e la qualità e la velocità del Cagliari, dove sul piano del gioco è la prima squadra che ha creato qualcosa più di noi, ci ha messo in grossa difficoltà anche sul possesso palla. La squadra invece nel secondo tempo ha avuto la forza da grande squadra di voler la vittoria fortemente, con idee, con più velocità, e poi è stata anche legittimata la vittoria, credo con merito. Ha ragione Montella, perché il Cagliari nel primo tempo ha messo in difficoltà la Fiorentina e non meritava di andare sotto per 3-1, poi però Jovetic e Toni hanno deciso tutto. Intanto ci accusano di essere juventini perché il calcio di rigore Marchisio su Milito era fuori area. Io, se vuoi, possiamo anche tornarci, Graziano, per qualche secondo, ma credo sia stato ampiamente sviscerato il tema. Graziano? C'è qualche problema di linea. Allora ancora i messaggi che arrivano. Paolo da Prato che scrive: Cassano da cartellino rosso, con tutto quello che è successo era una esagerazione. E poi su Twitter @CapuanoJoe: la cosa buffa è che i 5 arbitri sono gli unici nello stadio a non sapere quello che è successo veramente. E ancora Massi: la moviola va abolita, e se proprio la volete utilizzare fatelo soltanto a fine partita, altrimenti così condiziona gli arbitri. E poi ancora Rino: qual è la difficoltà ad usare la moviola in campo se ormai di fatto viene applicata e solo il povero arbitro non la vede? E poi ancora ci sono i tifosi juventini arrabbiati con l'arbitraggio del secondo tempo di Tagliavento e dei suoi assistenti, a giudicare dal rigore dato all'Inter e dalle tante ammonizioni ai bianconeri, dicono certamente Tagliavento nell'intervallo aveva visto qualcosa. Graziano, andiamo ad oggi, Napoli-Torino, partita 1-1 che si è decisa nel finale su un errore di Aronica che ha dato il via libera al gol di Sansone. È stato espulso Mazzarri, ci racconti perché? È stato espulso Mazzarri per una protesta, è la solita protesta con l'allenatore che si abbandona l'area tecnica e probabilmente non offende il direttore di gara. Per questa piccolezza, per questa mancanza, al Mazzarri è stato allontanato. Non ha offeso nessuno Mazzarri, quindi niente di grave, però insomma Mazzarri dovrebbe avere esperienza che anche in finali concitati comunque non viene consentito, perché il regolamento non lo consente. In questa partita ci sono state un paio di richieste di calcio di rigore. Nel primo tempo il Napoli per un fallo su Maggio. Direi che c'è questo fallo di Maggio, ma non è assolutamente un fallo da calcio di rigore, no, assolutamente non c'è questa evidente scorrettezza da parte del giocatore del Torino per la concessione del calcio di rigore. E poi invece a metà della ripresa un tocco di braccio di Dossena, qualche protesta del Torino. Qualche protesta del Torino, assolutamente sì, perché il bacio di Dossena era largo, era il bacio sinistro, e credo che in quel caso fosse opportuno concedere il calcio di rigore. Sì, giusta invece l'ammonizione a Cerci per simulazione. A me è sembrato cadere più avanti rispetto al presunto contatto. C'è stata una tirata di pantaloncino da parte di Verani, quindi sicuramente poteva essere molto lieve, però il pantaloncino si è visto allungato. Dopodiché c'è la munizione per simulazione, che a me sembra assolutamente sbagliata. Quindi diciamo che poteva risparmiarsi certamente il calcio di rigore, ma poteva risparmiarsi probabilmente in questo caso Valeri anche il cartellino giallo per la simulazione. Andiamo a Firenze invece, 42esimo del primo tempo, il gol del pareggio del Cagliari, io l'ho chiamata assemblea di condominio. Rete realizzata da Casarini con 3 giocatori del Cagliari teoricamente in fuorigioco, ma nessuno in fuorigioco attivo. Il problema è che all'inizio il Liberati, che è l'assistente di sinistra di Calvarese, alza la bandierina e induce l'arbitro ad annullare il gol. E poi invece cosa succede, Graziano? Succede che Giancola interviene, che l'arbitro di porta dice: guarda che questo gol è perfettamente regolare, perché dalla sua posizione ha potuto notare come 3 giocatori del Cagliari in posizione di offside non interferiscono minimamente con il tentativo di parata di Viviano. gol assolutamente regolare, Liberti si ravvede e fortunatamente viene concessa la rete. Fortunatamente per una volta quello del terzo piano non ha sbagliato, esatto. Nell'assemblea di condominio. Esatto, nell'assemblea di condominio questa volta il secondo amministratore, il segretario del condominio ha avuto ragione. Ecco, meno male. Andiamo a Catania, Catania-Lazio 4-0, partita quindi dal punto di vista arbitrale assolutamente tranquilla. C'è un calcio di rigore per il Catania al 25esimo del primo tempo per un tocco di braccio di Diaz su un traversone di Isco. Graziano. Assolutamente sì, perché direi che il braccio di Diaz si allarga pericolosamente verso l'esterno, va a impattare il pallone, nulla da dire su questa decisione assolutamente corretta da parte di Mazzoleni. Il terzo gol del Catania realizzato da Gomez, un intervento in spaccata su un cross, di fatto lo assegna invece Guida, che è l'arbitro di porta. Sì, lo segna proprio lui, la segnalazione è assolutamente ritardata perché è la comunicazione assolutamente ritardata, ma il pallone varca interamente la linea di porta, gol assolutamente regolare, bravo in questo caso Guida, che si piazza anche molto bene, si abbassa verso il terreno di gioco, abbassa le sue gambe ed è in posizione perfetta per valutare l'entrata di interamente del pallone. Sì, l'esatta applicazione di quelle che sono i dettami per i giudici di porta. Andiamo a Genova, Sampdoria-Atalanta 1-2, arbitra Russo, il gol dell'Atalanta, il gol dell'1-0 al secondo minuto Bonaventura, c'è da valutare la posizione di Raimondi, che è l'uomo che poi crossa per il gol di Bonaventura, mi sembrava però regolare. Esatto, posizione assolutamente regolare, buona in questo caso la comunicazione arbitro assistente e quindi un gol da dare. Come è stato fatto. E poi al 19esimo Eder della Sampdoria va a terra sugli sviluppi di un calcio d'angolo e chiede il rigore per una trattenuta. C'è una maglia di Eder che poi si vede nelle immagini che si alza pericolosamente, si vede il sottomaglia che è di colore nero, cosa assolutamente sbagliata, chiudiamo la parentesi, il sottomaglia deve essere sempre di un altro colore per aiutare il direttore, per aiutare l'arbitro. Esatto, per aiutare l'arbitro, era un calcio di rigore non concesso. E poi c'è un errore in questo caso di La Rocca, che è l'assistente di destra, l'assistente principale di Russo. Al 33esimo l'Atalanta va al raddoppio con un gol di Denis che viene però annullato per una posizione di fuorigioco che mi pare non esserci assolutamente sul cross di Schelotto, è la linea della palla che determina il fuorigioco, in questo caso Denis è più indietro rispetto alla linea di porta, rispetto alla linea immaginaria del pallone, quindi è un gol perfettamente regolare. C'è stata qualche protesta anche sul gol dell'1-1 di Maresca, in realtà credo più perché Maresca dopo va a cercare di recuperare il pallone, anche se ci sono due uomini in fuorigioco, a me sembra non attivo al momento della rovesciata, tra l'altro gol della domenica davvero bellissimo quello di Maresca. Sarebbe stato devastante annullare questo gol che è perfettamente regolare, le posizioni dei due giocatori della Sampdoria sono influenti. Il problema nasce quando Soriano cerca di recuperare il pallone in fondo al sacco di consigli, è una cosa che non si deve fare, meriterebbe il giallo e da quel momento nasce un parapiglia generale. Sì, nasce una mezza rissa, un parapiglia, comunque poi Russo riporta tutto alla normalità. Chiudiamo con Siena-Genoa, 1-0, c'è un gol annullato alla mezz'ora del primo tempo al Siena, un gol di Paci. Su un calcio di punizione dalla destra in attacco per il Siena, Paci sceglie male il tempo, si trova al di là della linea difensiva del Genoa di ben 2 metri. Quindi fuorigioco evidente e poi sempre nel primo tempo, pochi istanti più tardi, un destro al volo di Seduardo che finisce, a me sembra, sul petto di Granquist che si trova a 1 metro dalla linea di porta. Decisione assolutamente corretta, proprio il petto di Granquist, non la mano come richiedeva Calaiò che protesta inutilmente. Non c'è assolutamente calcio di rigore. Non ho segnato nulla in Bologna-Udinese, c'è qualcosa? Assolutamente no, in Bologna-Udinese no, fortunatamente per Bergonzi nessun problema oggi. Grazie a Graziano Cesari, però mi devi dare l'arbitro del derby Lazio-Roma di domenica. No, tu mi pretendi un po' troppo, perché a questo punto io continuo a tu dici Orsato. Continuo a buttare Orsato, probabilmente gli allunga la sua vita di cane. Io dico Rocchi perché è arrivato il momento e sono poi oggi riposava. D'accordo, sono perfettamente d'accordo, hai ragione. Grazie a Cesari. Grazie a voi. Grazie a Graziano Cesari, sta per parlare Mazzarri su Sky Sport. Buon pomeriggio a Romano da Milano. Buon pomeriggio. Prego. Allora io volevo dire che nel 2012, sì, con la tecnologia che ci accompagna in tutto e per tutto. Un momento Romano che sentiamo Mazzarri sulla sua espulsione. Spendioso e paghiamo più di qualche altra squadra di vertice. Noi bisogna ancora migliorare, crescere. Abbiamo avuto più volte la possibilità di chiudere la partita. Abbiamo fatto sempre la scelta sbagliata, un periodo così, la partita ormai era finita, per quanto riguarda me ho visto una spinta di Marek sulla bandierina e poi è stato spinto, gli ho detto questo è fallo per noi, è venuto un angolo, un momento particolare della partita. Hanno pensato per l'ennesima volta di mandarmi via per aver detto questo. Quindi... E questa è la spiegazione di Mazzarri della sua espulsione. Romano, prego, scusi l'interruzione. Ti figuri, niente, nel 2012 con la tecnologia che ci accompagna in tutto, mi sembra assurdo arrivare a proibire l'uso dell'iPad, dell'auricolare, perché se no copriamo cosa ci dice la moviola. Io andrei nella direzione opposta, cioè con l'uso della moviola. Per correggere eventuali errori. Che poi ha visto anche dal racconto del retroscena di ieri, di fatto la moviola esiste già a bordo campo e sono gli stessi direttori di gara, il quarto uomo, gli assistenti che prestano orecchio e attenzione a quello che gli viene segnalato. Il caso di ieri sera secondo me è clamoroso, ne abbiamo parlato prima con Graziano Cesari. Grazie a Romano. Gianni da Reggio Emilia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Io non voglio entrare in questa storia qua, sono juventino, sì. Meno male che l'Inter ha vinto, perché si tolgono tutti gli alibi, altrimenti addio. Sono uno che crede che la Juve vincerà lo scudetto, ha una grande pecca che tutti sanno, ed è l'attacco. Bisognava investire in un attaccante di qualità, nessuno forse voluto venire alla Juve, non lo so, Van Persie eccetera. Giovinco sta dimostrando di non essere l'erede né di Baggio né di Del Piero, e quindi una volta che si risolverà o a gennaio o a giugno questo problema saremo una grande squadra. Sì, io credo già a gennaio, Gianni, in qualche modo la Juventus proverà a correggere questa pecca perché rischia di essere limitante anche per le ambizioni di tutta questa stagione. Io mi auguro e penso che la Juventus riesca comunque a uscire con uno dei primi due posti dal girone di Champions League, il che significa dover costruire poi da febbraio un finale di stagione in cui essere competitivi anche in Europa e soprattutto lì, ma lo abbiamo visto ieri sera anche in Italia in campionato, alla Juventus serve assolutamente un finalizzatore, qualcuno che possa essere un uomo da una ventina di gol a stagione, gliene basterebbero 10-12 da gennaio a giugno, io credo, per completare il lavoro di Marotta e di Conte. E anch'io penso che la Juventus in questo campionato resti comunque la favorita per lo scudetto. Vero è che la lezione della mancanza di un attaccante comincia a essere evidente per tutti. Noi ci fermiamo, pubblicità e meteo, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Torniamo subito dopo e apriamo la prima pagina di A Tempo di Sport. E io ricordo allora i contatti 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi o sulla pagina Facebook A Tempo di Sport trattino Radio 24, via Twitter chiocciola Capuano Gio. Intanto sta per parlare Ferrara ai microfoni di Sky Sport, cercheremo di capire che cosa succede a Genova e lo chiediamo anche a Giampiero Timossi. Buon pomeriggio Giampiero. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a Genova oggi. Non tanto, Non è una definizione adeguata. No, oggi è un pomeriggio per il calcio, ovviamente, calcisticamente. Non c'è Stiamo dubbio. Parlando solo di quello, abbastanza una domenica nera, senza dubbio. Sì, anche perché oggi in realtà è la ricorrenza, un anniversario particolare per Genova città, perché un anno fa l'alluvione provocava le vittime, certo. Immagini che ricordiamo tutti, noi ovviamente stiamo parlando unicamente di calcio. Hai fatto benissimo ricordare questa cosa, stiamo parlando di calcio, che in fondo è la grande passione nazionale, però di passione di sport stiamo parlando. Da questo punto di vista sentiamo Ferrara che te lo faccio sentire in diretta. Grazie. In quanto molto giovane, ovviamente questo tipo di situazioni magari non sono abituati ad affrontarle. A proposito, le chiedo quanto incide la paura, visto che dopo il gol di Maresca è sembrato che cambiasse qualcosa anche nella mentalità, nell'approccio alla partita della sua squadra. Sì, noi siamo andati subito con un po' di tensione immediatamente dopo lo svantaggio, quindi dopo pochi minuti. Il primo tempo non abbiamo fatto di sicuro quello che siamo abituati a fare nel ritmo della partita, nelle distanze tra i vari reparti, e quindi lasciavamo diversi spazi in cui i centrocampisti e gli attaccanti dell'Atalanta potevano farci del male. Verso la fine del primo tempo abbiamo cambiato un po' atteggiamento tattico e mi è sembrato che le cose andassero decisamente meglio. Andavano meglio le cose, poi però nel secondo tempo Giampiero, comunque l'Atalanta è riuscita a fare sua la partita. Ho l'impressione, se sta sconfitta consecutiva, che al di là delle scelte che farà la società, per Ferrara l'avventura alla Sampdoria sia, se non chiusa, quasi. Guarda, è difficile dirlo adesso, nel senso che bisogna prima aspettare quelle che saranno ovviamente le prime consultazioni tra i dirigenti della Samp. Oggi era presente soltanto il direttore generale Sagramo allo stadio, non era presente il direttore sportivo Sensibile, impegnato per lavoro in un altro stadio, così almeno mi hanno riferito i colleghi. Non era presente il vicepresidente Edoardo Garrone, perché lo sapete, lo sappiamo, in aperta, così diciamo, protesta, in aperta polemica con quelle che sono state alcune decisioni arbitrali delle passate. Tanto per non farci mancare gli arbitri anche qui. Sì, tanto per non farci mancare gli arbitri anche qui, anche con, bisogna dire la verità, con motivazioni, in particolare per quanto riguarda alcuni episodi nella gara contro l'Inter, che probabilmente, anzi sicuramente, richiederebbero una maggiore attenzione, o forse richiederebbero soltanto una semplice soluzione. Quindi bisogna aspettare, quindi, ancora per capire qual è il destino di Ferrara. Perché bisogna aspettare? Perché le dichiarazioni della proprietà, del presidente della famiglia Garrone, fino a ieri sono state chiarissime: non si discute assolutamente Ferrara anche in caso di sconfitta, e questo è quanto ha detto il presidente sia in un'intervista al nostro quotidiano, sia il direttore generale Sagramo alla vigilia, proprio davanti alle telecamere di Sky. Quindi questa è la situazione, no? Se le parole hanno ancora un peso, Ferrara oggi non rischia nulla. Certo è che resterà l'allenatore della Sampdoria, certo è che in qualche modo deve esserci una svolta, perché 6 sconfitte consecutive, è vero che dietro il margine resta ancora rispetto alla zona caldissima, però è anche vero che questa è una sconfitta che fa male, perché un conto è perdere a San Siro contro l'Inter, ad esempio. La serie di sconfitte fa male, questo tipo di sconfitta, e fa male questa serie infinita di sconfitte, questo è indubbio, no? Ferrara ha sottolineato i giorni scorsi i tanti risultati, così la fila di risultati positivi, la sfida di risultati positivi fatti all'inizio campionato, dicendo: beh, insomma, facciamo due conti, vediamo che la Sampdoria comunque in fondo a quello che ci si attendeva alla vigilia alla del vigilia campionato. Di questo campionato. Però non è proprio così, perché, come giustamente sottolineavi tu, questa sfilza di risultati negativi impongono comunque una soluzione radicale. Non so se la soluzione del cambio allenatore sia quella giusta, anche perché dall'altra parte della città è arrivata la terza sconfitta consecutiva di Del Neri dopo il cambio di allenatore, quindi attenzione a considerare la ricetta. Giampiero, ti fermo perché apriamo la nostra prima pagina. Una prima pagina che dice che il Napoli non risponde alla chiamata della lotta a scudetto, viene fermato a sorpresa ma meritatamente dal Torino, resta a 5 punti dalla vetta, Mazzarri ancora espulso, crolla anche la Lazio che arriva al derby in piena frenata, ora la quarta forza del campionato è la Fiorentina. E poi il giorno dopo Juventus-Inter, i bianconeri si interrogano sulla sconfitta, c'è un allarme Vucinic per la Champions League, contro il North Zealand la Juventus si gioca tutto, Stramaccioni invece si gode il successo, ha idee, carisma, carattere, assomiglia sempre più a José Mourinho. E poi ne abbiamo parlato anche con Graziano Cesari, il giallo della Moviola a Torino, il guardalinea Preti ha chiesto a Tagliavento di annullare il gol di Vidal perché a segnalare in tempo reale il fuorigioco di Asamoah era stato Beppe Baresi con l'iPad in panchina. E allora ci chiediamo noi, ma perché non consentire la Moviola in campo? Perché questo, Giampiero, è il grande giallo di ieri sera, noi ce lo siamo chiesti. È un giallo facilmente risolvibile, lo chiedono tutti, la moviola in campo è fondamentale. Noi abbiamo fatto un calcolo proprio sul giornale di oggi, e gli arbitri addizionali portano circa a un aumento delle spese della Federcalcio di 1.300.000 euro a stagione, quindi oltre alle spese già sostenute, ai costi già sostenuti per quelli che erano i quattro arbitri in precedenza. Tanto vale investire quanto, per un televisore. Tanto vale, credo, investire nelle tecnologie, perché? Perché giustamente poi là, insomma, i vertici arbitrali sostengono che neanche la moviola può dare con estrema precisione quella che è la posizione del giocatore. Perché? Perché se il fuorigioco è di pochi centimetri, anche i frammenti di immagine forse non riescono a fermare l'attimo esatto nel quale il pallone dell'uomo assist viene colpito. Benissimo, servirebbero dei sensori a questo punto, sostengono sempre gli arbitri, nel pallone e anche probabilmente nelle scarpe dei giocatori. Beh, investiamo sulla tecnologia, non investiamo su un qualcosa che comunque crea polemiche e secondo me, e non soltanto a mio avviso, ma ho sentito anche altre ben più autorevoli voci a favore di questa tesi, creano anche una grande confusione in quella che è la catena di comando durante la partita. Sì, lo abbiamo visto anche oggi a Firenze, dove alla fine fortunatamente è stata presa la decisione giusta, perché il gol era regolare, però non si possono vedere quelle scene. Non si possono vedere quelle scene, non si devono ripetere le scene viste per Catania Juventus, ma è molto semplice. C'è un bellissimo libro uscito da poco, recentemente, che parla di ben altri argomenti, cioè di quelle che sono le decisioni dei grandi capitani a bordo delle navi. Beh, le decisioni dei capitani sono diventate più, in qualche modo, più discutibili proprio quando ci sono continui contatti con quella che è la capitaneria a terra, insomma quando quando ci sono troppi galli che vogliono dire la propria, esatto, non riesce a imporre quella che è la sua autorevolezza, e quindi veramente mi sembra che questa degli arbitri addizionali sia veramente un grandissimo pasticcio. Sì, quantomeno da rivedere come esperimento. Di mandare più gente, insomma, spesata, certo, dalla Federcalcio, ovviamente, e poi in qualche modo anche dai club in giro per l'Italia, ma non risolvendo affatto quello che è il problema. Intanto Fabrizio, un rugbista, ci dice: nel rugby esiste il giudice televisivo da anni e l'arbitro ha facoltà, esatto, di sentirlo in casi dubbi, perché non si adegua anche il calcio? E poi ancora un altro amico: gli assistenti sono inutili, messi così come stanno, devono essere davanti a una moviola e comunicare da un box in tempo reale via radio con l'arbitro. Resta che secondo me è incredibile comunque che il quarto uomo, nella ricostruzione che abbiamo fatto con Graziano Cesari, abbia preso per buono quello che gli diceva l'iPad di Beppe Baresi, comunicando all'assistente che a sua volta ha cercato in qualche modo di far cambiare la decisione a Tagliavento. Qui io credo siamo anche oltre la testata di Zidane nella finale mondiale del 2006. Sì, ma guarda, credo anche che ci sia una risposta all'intervento sacrosanto del nostro amico rugbista, no? Che pratica uno sport, sì, straordinario. Io non conosco nessuno, almeno pochissimi arbitri di rugby. L'arbitro di rugby e di moltissimi altri sport non è un personaggio pubblico. Gli arbitri di calcio sono personaggi pubblici, noi conosciamo i nomi di tutti gli arbitri, sono stati fatti anche molti anni fa dei film sugli arbitri di calcio. Che significa? Significa non soltanto che il calcio è lo sport più diffuso, ma anche che probabilmente i direttori di gara amano un po' questo protagonismo e quindi vogliono essere ancora e sempre i protagonisti principali di quanto accade sul terreno di gioco. Credo che soltanto così si possa dare una risposta a questa ostinata battaglia contro la tecnologia in campo e invece a questa soluzione che, ripeto, trovo assolutamente inadeguata, anzi capace di complicare ancora le cose, degli arbitri addizionali. E lo abbiamo visto. Grazie a Giampiero Timossi. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Giampiero Timossi, responsabile delle pagine sportive del Secolo XIX, c'è Ventura su Sky Sport. Di Sgrigna sollevando il portiere, oppure quella di D'Ambrosio a colpo sicuro di testa che ha voluto fare la rovesciata, parlo dei primi due che mi vengono in mente. È evidente che meritavamo, credo, in assoluto di non perdere, e direi che poi il risultato finale è giusto, anche se poi è venuto al 90esimo. Questa è la lettura della partita Napoli-Torino 1-1 di Ventura. Subito un minuto per il traffico. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, come quella di Paolo Davarese. Buon pomeriggio Paolo. Buon pomeriggio a voi. Prego. Grazie. Io volevo solo portare la mia esperienza da appassionato di football americano. Sì. A proposito della moviola in campo, la cosa importante secondo me da sottolineare è che nel football americano, per esempio, si può chiamare due volte per ogni due quarti, diciamo, e non su tutte le decisioni arbitrali, chiaramente, non sui falli chiamati dagli arbitri, ma su delle controversie riguardanti o le linee laterali oppure altri tipi, le ricezioni, queste cose qua. Secondo me la cosa che si potrebbe applicare al calcio è proprio questa, dare anche una strategia relativa alla chiamata. Cioè, ad esempio, i gol fantasma, i fuorigioco su un'azione che si conclude con un gol, ad esempio, esatto. Quella di ieri sera a Torino, e magari l'episodio di gioco violento che può essere sfuggito. Grazie Paolo, e con questo rispondo anche a chi ha scritto al 349-238-6666 dandoci dei qualunquisti e scrivendo: se ad esempio viene fermato un giocatore per fuorigioco, la moviola dice che non c'era, come si riparte? Non si riparte, nel senso che la moviola non viene utilizzata per tutte le casistiche, può essere utilizzata per quelle azioni che sono state finalizzate ad esempio con un gol, come può essere capitato ieri sera a Torino in occasione di Juventus-Inter, e in questo modo si riduce il margine di errore. Io penso che questa possa essere una soluzione, un punto di partenza. Il problema però è che non si ragiona nemmeno di questo. In questo momento FIFA e UEFA sono semplicemente contrarie all'introduzione della moviola nel calcio. Valerio dice: chi ha giocato a calcio non vuole la moviola, io non la voglio. E poi ancora Giovanni da Modena: il calcio è bello così perché è imperfetto, come gli abiti su misura. Francesco da Perugia, buon pomeriggio. Sì, buonasera. Anch'io giocavo a calcio, ma ritengo che la moviola sia necessaria ormai arrivata a questo punto, altro per i livelli altissimi professionisti, insomma. Secondo me, proprio come diceva l'ascoltatore precedente, le soluzioni sono semplicissime. Si può selezionare una casistica. Sì, ma basterebbe regolarle. Ad esempio, si offre la possibilità di 2 jolly per squadra, per ogni partita 2 jolly. I capitani delle squadre decidono quando utilizzare questi jolly. Sì, un po' come accade anche nel tennis. Grazie Francesco. Alessandro Vocalelli, firma di Repubblica, ex direttore del Corriere dello Sport, buon pomeriggio. Buonasera a voi e ai vostri ascoltatori, buonasera a tutti. Come senti, il dibattito sulla moviola è apertissimo, però io volevo chiederti del Napoli, che si è sgonfiato e ha mancato l'aggancio alla vetta, o comunque a quel treno che rischia adesso di essere un treno soltanto con 2 vagoni, Juventus e Inter. Cosa ne pensi? Rispondo a questo, però poi fammi dire anche a me sì. Una cosa sulla moviola. No? Prego. Allora, ti dicevo che sul Napoli, sì, in effetti è stata un'occasione persa per la squadra di Mazzarri, perché proprio al 90esimo, tra l'altro, in quella maniera, con questo errore difensivo di Aronica. Sì. Il Torino è una squadra che soprattutto in trasferta non ha mai perso, per cui sicuramente è un avversario difficile da affrontare, però il Napoli alla fine era riuscito a risolvere la pratica, se non ci fosse complicata da solo la vita con quel quasi autogol finale. Insomma, è chiaro che ai napoletani dispiace, perché, come dicevi giustamente, era l'occasione per rimanere agganciata a Inter e Juve. Adesso, per carità, il campionato non è ancora... Sì, è lunghissimo. È lunghissimo, però sono 2 punti pesanti che rischiano di farsi sentire. Abbiamo visto Mazzarri un po' nervoso. Tu sei l'autore dell'intervista in cui Mazzarri ha preannunciato la possibilità a fine stagione di fermarsi per un anno. Da lì in poi i segnali si sono moltiplicati. Beh sì, insomma, io so quello che dice Mazzarri, credo di sapere anche quello che penso, per cui... lui sicuramente sta vivendo con grande intensità questi anni napoletani, sono stati di grandissima intensità, ha una squadra a cui continua a chiedere tanto, a chiedere molto, e io credo che in qualche modo, anche se non lo dica pubblicamente, il fatto di aver perso Lavezzi, e che però ci sta vista la contropartita economica, ma forse di non aver avuto un altro attaccante oltre Insigne, diciamo, un po' più esperto, più capace, insomma, di reggere subito immediatamente certi ritmi, ha finito per moltiplicare un po' gli sforzi di tutta la squadra del Napoli. Sì, gli ha tolto un po' di entusiasmo, come se De Laurentiis non credesse nel progetto, in quell'ultimo salto di qualità, quello per lo scudetto. E l'errore di oggi, mi sembra anche l'errore di una squadra che vive sempre appunto al massimo della concentrazione, dell'attenzione, e poi c'ha un attimo così di smarrimento e finisce per pagarlo, insomma, ecco. Ti stupisce invece il KO della Lazio, un vero crollo a Catania? No, non mi stupisce, perché avevo colto, certo, in queste proporzioni sì, la sconfitta no, perché avevo colto comunque un momento di flessione della Lazio, di una squadra che secondo me invece ha dei valori per poter fare un altro campionato, e penso che dalla Lazio ci si possa aspettare di più, e credo che non sia sufficiente la spiegazione della mancanza di Klose, perché è vero che non c'era Klose, ma io penso che una squadra con Ledesma, Hernanes, Candreva, Mauri, per fare dei nomi, debba essere una squadra che possa dare delle garanzie maggiori di quelle che sta dando ultimamente la Lazio. Sì, poi soprattutto la partita a Catania è finita in mezz'ora, 3-0, sì. Da lì in poi è stato più che altro un allenamento che ci porta al derby di settimana prossima, con in mezzo il passaggio di Roma-Palermo di questa sera, con uno Zeman che a me pare un po' in uscita dal progetto Roma. Non significa in uscita dalla panchina della Roma, però ho l'impressione che si sia un davvero rotto il rapporto tra Zeman e la società, ammesso che sia mai nato. Beh, nato sì, anche perché Zeman ha rappresentato non un ombretto, ma un ombrellone per quest'estate della Roma, insomma, perché la Roma veniva da una stagione molto molto deficitaria, e per riconquistare, diciamo, un pochino la simpatia della gente, non poteva essere meglio che la scelta Zeman, che infatti dopo un anno disgraziatissimo per la Roma invece poi ha fatto il record di abbonamenti, insomma, questo soltanto grazie a Zeman. E Zeman l'ha preso per quello che è, nel bene e anche tra virgolette nel male. Credo che lui abbia delle responsabilità, non c'è dubbio, ma credo anche che forse è stata un pochino sopravvalutata la forza di una squadra che è sicuramente una buona squadra, ma secondo me un po' troppo piena di ragazzi, nel senso che guarda la Juve con quale... Sì, è un progetto che può andare bene a Foggia o in altre piazze, ritornando alla carriera di Zeman. Alla Roma alla fine qualche risultato lo devi anche portare. Appunto, alla Juve dosano Pogba, al Napoli si interrogano su Insigne, eccetera, eccetera. La Roma spesso mette 5, 6, 7, 8 ventenni che magari sono tutti bravissimi presi singolarmente, ma poi hanno degli alti e bassi quando formano una squadra. Alessandro, devo chiudere, devo salutarti. Se vuoi ti richiamiamo dopo il GR per sapere cosa ne pensi della Moviola. La prossima volta. Allora, grazie ad Alessandro Vocalelli. Ci fermiamo per il GR e poi torniamo. Avremo ospite Eugenio Corini, allenatore del Chievo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure aperta la nostra pagina Facebook A Tempo di Sport - Radio 24, e potete scriverci via Twitter @CapuanoGio. Buon pomeriggio, anzi buonasera, da Eugenio Corini. Buonasera a voi. Buonasera Eugenio, reduce dalla sconfitta pesante ieri sera di San Siro, anche se, correggimi se sbaglio, in realtà nel primo tempo non è stato un brutto Chievo, al di là del fatto che avete chiuso sul 3-1. Ma direi che abbiamo fatto una buonissima partita, sull'1-1 tra l'altro eravamo in controllo e siamo stati pericolosi in 2-3 situazioni mentre controllavamo bene il Milan. Come succede spesso contro le grandi squadre, abbiamo preso il 2-1 con un tiro da fuori area e neanche il tempo di rimetterci a posto, e abbiamo subito addirittura il 3-1 che a fine primo tempo era sicuramente un risultato immeritato. Poi nel secondo tempo è uscita la stanchezza sicuramente di un calendario che ci ha penalizzato, perché abbiamo giocato domenica sera in posticipo a Napoli, mercoledì abbiamo giocato su un campo al limite della praticabilità col Pescara, uno scontro diretto, e il Milan aveva potuto giocare martedì, e di conseguenza la fatica, il contraccolpo psicologico purtroppo nel secondo tempo l'abbiamo pagato, e contro queste grandi squadre non puoi lasciare nulla di intentato. Sì, la vostra partita di ieri sera assomiglia secondo me da vicino a quella del Cagliari oggi a Firenze. Il Cagliari ha preso due gol, il 2-1 e il 3-1 nei primi 10 minuti del secondo tempo, nello spazio davvero di pochi secondi, quando stava facendo la partita, e sono rischi che si corrono quando si gioca contro squadre che hanno delle grandi individualità, quella della Fiorentina e Jovetic, ma non solo. Mi sembra che il Milan di ieri sera, e questa è la tua grande sfortuna, abbia ritrovato un po' di convinzione e soprattutto qualcosa degli uomini che possono fare la differenza. Come l'hai vista? Sì, nel momento secondo me più delicato per loro, dopo l'1-1 che come dicevo prima eravamo in partita, eravamo noi pericolosi, lì hanno trovato due gol con due giocate, con due tiri da fuori area, come succede spesso contro le grandi squadre, e sul 3-1, complice anche un po', come dicevo prima, la nostra stanchezza, il Milan ha potuto giocare sul velluto, cosa che non gli capitava da tanto tempo, e lì quando i giocatori di talento possono giocare in scioltezza, poi per le altre squadre diventa tutto molto più complicato, soprattutto se hanno anche qualche spazio a disposizione in più. Quando ti apri un po' contro queste squadre, purtroppo per cercare di pareggiare rischi, anche perché hanno qualità individuali molto importanti. Stavo dando un'occhiata alla classifica, immagino non ti abbia fatto piacere il pareggio del Torino oggi a Napoli. Ci sono 8 squadre nell'arco di 5 punti, il Chievo in mezzo, siete ancora lontani dalle ultime 3 posizioni, però, e lo abbiamo detto anche settimana scorsa, questo è un campionato in coda che probabilmente ci riserverà una lunga maratona, una guerra di trincea, punto su punto, fra tante squadre. Sì, l'hai raccontato bene tu, secondo me tante squadre saranno coinvolte, bisogna avere grande equilibrio quando, sia quando vinci che quando perdi. Secondo me lo sforzo fatto in questo mese da quando siamo subentrato è stato uno sforzo importante che ci ha rimesso nel gruppone, e questo è stato secondo me un passo decisivo. Adesso abbiamo delle settimane tipo fino a dicembre, affronteremo tante squadre che concorreranno con noi alla lotta per non retrocedere, e questi sicuramente sono punti pesanti e partite molto importanti. Intanto domenica avete l'Udinese, è un derby tra l'altro nel Triveneto tra Chievo e Udinese, ed è una partita nella quale io penso tu debba assolutamente in qualche modo muovere la classifica anche per cancellare questa settimana difficile. Guarda, la settimana è stata secondo me difficile, nel senso che abbiamo affrontato due grandi squadre in trasferta come il Napoli e come il Milan. A Napoli c'è il grande rammarico che con un pizzico un pochino più di fortuna potevamo portare a casa un punto, come è successo magari al Torino oggi. Abbiamo vinto uno sconto diretto molto importante col Pescara, e a Milano era una partita obiettivamente difficile, ma visto lo sviluppo, quello che mi dispiace di più è la sconfitta, le dimensioni che poi ha avuto nel secondo tempo. Ed io penso che in Serie A ogni partita vada affrontata cercando di fare i più punti possibili, anche quando giochi contro i grandi squadri, consapevoli del rispetto che devi loro e del grande equilibrio che regna in questo campionato, soprattutto per me da 10-12 squadre possono essere veramente, non dico sullo stesso livello, che sono squadre che hanno rose anche più forti, ma a volte l'inerzia psicologica, le difficoltà, anche i giocatori più bravi, l'ambiente che diventa difficile, possono complicare la vita a squadre che magari hanno un potenziale anche tecnico importante. Il Milan che hai visto ieri sera dove può arrivare? Ma il Milan, come dicevo prima, da quando l'ho visto col Malaga in Champions, secondo me si sono ritrovati, nel senso come spirito, come compattezza e come voglia di uscire in un momento delicato. Difatti la partita col Genoa l'hanno vinta meritatamente, hanno recuperato una partita difficilissima a Palermo e contro di noi hanno superato un momento delicato, poi l'hanno vinta addirittura in larga misura. Di conseguenza hanno ritrovato questo spirito, hanno trovato giocatori importanti come il Sharawi che sta facendo molto bene, Boyan che da Palermo e contro di noi ha fatto la differenza. Ti piace messo in quella posizione? Io credo che non sia arrivato al Milan per giocare in quel ruolo, però è evidente che sta convincendo e che potrebbe essere comunque una variante tattica importante per Allegri, messo lì dietro la prima punta. Sì, anche perché ha movenze da trequartista, ma attacca la porta come una punta, di conseguenza è anche difficile da marcare ed è una condizione secondo me straordinaria. Io credo faccia molto la scuola del Barcellona, dove sono abituati a fare tutto e niente. Sì, in maniera importante a volte basta uno stop orientato, ha già saltato un avversario, dunque solo come si muove in campo è qualcosa di straordinario, poi quando punta la porta a tiro, a passaggio filtrante, a tecnica, dunque è un giocatore secondo me importante che, come dicono tanti, per adesso ha dimostrato che quando entra partito in corso fa la differenza, magari quest'anno può essere la sua grande occasione per dimostrare che può essere anche un titolare in un grande club. Cosa ne pensi di Juventus-Inter invece di ieri sera? Se da allora, io immagino non in diretta perché avete finito di giocare alle 8:15, sì. Poi c'è stato il rientro a Verona, però credo che tu abbia visto qualcosa della partita di ieri sera. Sì, l'ho vista e devo dirti che l'Inter ha dato una sensazione di forza incredibile, perché andare sotto dopo 20 secondi in uno stadio infuocato come quello della come lo Juventus Stadium, una squadra in salute come la Juventus, vuol dire che hai forza, che hai carattere, che hai qualità, altrimenti non recuperi questa partita e addirittura la vai a vincere. Ti consente, complimenti all'Inter. Io fino adesso pensavo che il Napoli potesse essere l'accreditata più importante a combattere con la Juventus, ma devo dire che l'Inter ha dimostrato sul campo di poter concorrere pienamente con Juventus e Napoli al titolo dello scudetto. Sì, anche perché il Napoli sta risentendo un po' dell'onda lunga della sconfitta di Torino. Ha fatto una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle tre partite successive, se non sbaglio, e quindi probabilmente è evidente che anche dal punto di vista psicologico ne ha un po' risentito, ed è forse il contrario, Eugenio, di quello che potrà accadere all'Inter, che certamente prenderà grandissima spinta dalla vittoria di ieri sera. Guarda, quando ti parlo di inerzia psicologica è proprio questo. Io parlo di squadre che magari non aspettandolo solo lottano per non retrocedere pur avendo un potenziale diverso. Una squadra come l'Inter che non si sapeva bene all'inizio dell'anno che ruolo potesse avere. Che potenzialità abbia. Adesso penso che anche la tifoseria ha ritrovato smalto, entusiasmo, dunque andare a giocare a San Siro diventerà molto complicato per tutti. Hanno dimostrato fuori casa grandissima personalità perché hanno vinto praticamente sempre. Di conseguenza in questo momento, quando questi talenti si ritrovano insieme, hanno creato uno spirito di squadra importante, anche l'ambiente stesso ha ritrovato entusiasmo, in questa situazione può essere quello che è successo alla Juventus l'anno scorso, che era partita non con i favori del pronostico, ma che dopo ha vinto meritatamente il titolo. E poi c'è Stramaccioni, che a questi livelli io credo sia una sorpresa per tutti, e non soltanto al di là per le idee, per i cambi, per le scelte che fa e che abbiamo visto ieri sera sono anche vincenti, ma penso di poter dire, o almeno io ritengo così, anche per il carattere e per il carisma con cui tiene la scena. Ah no, indubbiamente sta dimostrando di meritare la chance che la società gli ha dato, e lo dimostra, come dici tu, secondo me le scelte a volte tattiche che l'allenatore fa e che poi sono indovinate sono figlie di quello che costruisce come spirito di squadra, e allora quando poi vedi che un cambio entra e fa bene, perché secondo me c'è uno spirito di gruppo importante, di conseguenza puoi chiedere anche a quel giocatore una situazione particolare, un ruolo particolare, viene fatto al massimo, e devo dire che da questo punto di vista Stramaccioni, a parte i sistemi di gioco, i cambi, probabilmente ha creato uno spirito di squadra molto importante. Tu ti saresti arrabbiato per la pensieratezza di Marotta? Assolutamente, quello penso che a volte l'allenatore viva lo stress, e a volte anche noi siamo uomini e possiamo reagire magari non nella maniera più opportuna, più adeguata, ma a volte possiamo concedergliela, anche perché insomma non era né una frase né volgare né... era un assolutamente attimo, io penso che probabilmente questa mattina Stramaccioni ci avrà anche fatto una risata su, a mente fredda e a nervi freddi, poi ieri sera la tensione di Juventus-Inter evidentemente ha preso sopravvento. Grazie ad Eugenio Corini. Grazie a voi, buon lavoro, a presto. Grazie ad Eugenio Corini, allenatore del Chievo. Ci sono Bruno da Civitavecchia, Massimo da Brescia che stanno aspettando. Ci fermiamo però per le notizie sul traffico. Intanto nel borsino degli allenatori che erano segnalati a rischio prima di questa domenica, da segnalare che hanno vinto Allegri e Stroppa, Milan-Chievo 5-1, Pescara-Parma 2-0, dunque confermatissimi. Ha vinto anche Cosmi, Siena-Genoa 1-0, panchina salvata a Siena, ha pareggiato Pioli, però ha così interrotto la striscia di 4 sconfitte consecutive, ha perso solo Ferrara. Abbiamo sentito però prima Giampiero Timossi dire che molto probabilmente Ferrara, malgrado i 6 KO consecutivi, resterà sulla panchina della Sampdoria. E poi questa sera Zeman, che si gioca una fetta importante del suo futuro in Roma-Palermo. Bruno da Civitavecchia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A tutti, buonasera, buon pomeriggio. Prima di entrare nella domanda che volevo porre, sì, una piccola considerazione sugli allenatori ex Juventus, sì, Pioli, Corini, Ferrara, insomma, non è che se la passino benissimo, purtroppo. Sì, però è anche vero che quella della Juventus resta una scuola importante, perché non tutti i club alla fine regalano le competenze e probabilmente anche le scelte in partenza dei propri uomini, tali poi che questi possano avere una seconda carriera anche da allenatori. Ad esempio io non mi ricordo grandi allenatori usciti dall'Inter, faccio un esempio, ricordo qualcosa dal Milan. Da questo punto di vista la Juventus rappresenta un'eccezione. Prego Bruno. Indubbiamente, poi lo dice a me che sono nato con Anzolin, Gori e Leoncini, quindi insomma. E quindi, prego. Ascolti, no, io ho una piccola considerazione sugli attaccanti della Juventus, che tanto si dice e tanto se ne parla. Sì. Io credo che, d'accordo, difendere le scelte di mercato, gli investimenti fatti, soprattutto con Giovinco, però io credo che, premesso ovviamente insomma le 50 partite consecutive senza sconfitte, premesso lo scudetto, quindi tutte le premesse di questo mondo, però insistere con Giovinco e con Bentner davanti contro una partita, in una partita contro l'Inter, quando tu hai un Quagliarella che comunque al pallone sa dare del tu e qualche volta la butta pure dentro, non penso che sia autolesionismo, ma qualcosa del genere, non pensa? Ma io penso che, lo abbiamo detto anche prima, certamente Quagliarella, altrettanto vale per Matri, che fino a prova contraria l'anno scorso è stato il miglior attaccante, il miglior cannoniere della Juventus, e quest'anno è stato praticamente dimenticato sin dalle scelte di quest'estate da parte di Conte, e a maggior ragione nell'ultimo mese. Se non sbaglio, in tutto il mese di ottobre in campionato Matri ha giocato mezz'ora, e poi è letteralmente sparito dalle rotazioni dell'allenatore della Juventus. Ecco, io credo che probabilmente è legittimo che la Juventus abbia dato queste chance a Giovinco, che è un uomo su cui ha investito tanto e non soltanto in termini economici, però è anche vero che Giovinco a questi livelli, lo si è visto anche in Champions, fa fatica a fare la differenza, fa fatica a essere un uomo che fa valere il suo peso tecnico, ovviamente non quello fisico, fa fatica ad essere la spalla giusta di Vucinic, e quindi io credo, e lo abbiamo detto, a gennaio in qualche modo Marotta sarà costretto a intervenire sul mercato. Grazie a Bruno. Massimo da Brescia, buon pomeriggio. Buonasera. Prego. Io sono tifoso della Juve, vorrei partire proprio da qui. Sì. Tre considerazioni. Prego. Allora, la prima riguardo il discorso dell'attacco della Juventus, più che altro riguardo la prestazione di ieri. Alla Juve non si può dire niente, perché è una squadra che ha fatto 49 risultati utili, ha vinto uno scudetto inaspettato, insomma. Stiamo ragionando dei dettagli, Massimo, però a quel livello valgono anche i dettagli, no? Come tifosi della Juve siamo grati di questa cosa. Spiace aver perso contro l'Inter per n motivi. La cosa che colpisce è, secondo me, l'assoluta inconsistenza che ormai è un tratto continuo dell'attacco senza Vucinic. Questo è un fatto oggettivo, è riscontrato in n partite, e secondo me su questo discorso qua vale quanto si diceva prima. Matri, secondo me, è molto meglio di Bentner come attaccante, questo è il mio punto di vista, e Quagliarella è forse l'unico che veramente ha quella capacità di buttarla dentro che nemmeno Vucinic secondo me ha. La preoccupa il fatto, e ce lo ha detto prima Mirko Graziano della Gazzetta dello Sport, che la Juventus stia pensando di risparmiare a Vucinic la partita di Champions, quella contro i danesi del North Zealand. Guardi, io di queste cose onestamente non sono preoccupato. Quello che mi preoccupa è questa incapacità della Juventus di prendere un attaccante con certe caratteristiche che tutti chiamano come top player. Aver preso degli attaccanti, ce ne sono parecchi in giro, mi viene in mente uno dell'Anderlecht molto forte, di cui non ricordo il nome, un nero, che ho visto giocare un paio di volte. Sì, non necessariamente bisognava andare a prendere Van Persie con tutte le difficoltà. Ha ragione, io dico che a giugno va in scadenza Huntelaar, ad esempio. Se è vero che Huntelaar è un giocatore che può arrivare nel campionato italiano, fossi in Marotta ci farei un ragionamento. Grazie a Massimo da Brescia, Elvio da Salerno, e poi saluto anche Guido Bagatta, con cui parleremo di Moviola negli sport americani. Elvio, buon pomeriggio, prego. Buon pomeriggio, salve, io sono di Salerno, tifo per la Salernitana, sono un po' fuori dal coro, insomma, però dica. La Salernitana è la mia unica fede, ok? Però comunque guardo tutto il calcio, insomma, non è che non guardo la Serie A. Secondo me con la Moviola in campo questo sport sarebbe proprio un altro sport, insomma. E poi volevo sottolineare il fatto che le squadre comunque che ci sono nel nostro campionato sono davvero scarse, se si fa il paragone con gli anni 80-90. Stiamo parlando veramente di altro, insomma. Sì, non c'è dubbio. Per esempio la proiezione più scontata è quella che abbiamo in Europa, insomma. In Europa facciamo delle figuracce ogni mercoledì, giovedì. Per fortuna lavoro e non vedo più nulla, insomma, in Europa. Sì, non c'è dubbio che il livello del nostro campionato sia in qualche modo peggiorato, anche se poi non è vero che facciamo figuracce tutte le volte che ci presentiamo in Europa. Quanto alla Moviola, e saluto Guido Bagatta, buonasera Guido. Buonasera a tutti. Bisogna capire se il calcio, che diventerebbe un altro sport, diventerebbe uno sport migliore o peggiore con la televisione in campo. Secondo me sarebbe grazie, stavo parlando con Guido Bagatta. Guido, se dicevo, si sono accavallate le linee, prego. Una cosa, sì. Quello che hanno fatto in America, al di là di tutto, ogni gol in America, ogni touchdown, mi riferisco al football americano, è rivisto alla Moviola, è rivisto all'Insta Replay. Quindi anche se apparentemente non c'è nulla, siccome i gol nella partita di calcio in media sono 2/3, quindi non è neanche troppo, diciamo, non interrompe neanche troppo il ritmo del gioco per il pubblico e tutto il resto. Insomma, il gol ha sempre qualche dubbio, no? Sul fuorigioco, piuttosto che su un fallo di mano, piuttosto che su una spinta. Ogni gol è rivisto, ogni touchdown, anche il più netto, in America viene rivisto. Poi ci sono altre cose sulla Moviola americana che sono inapplicabili se non altro per lo spirito, diciamo, il temperamento dei tifosi nei nostri stadi. Però questo semplice accorgimento ci farebbe togliere intanto i giudici di porta. Mi sembra veramente di essere tornati al Medioevo, il giudice di porta non ha senso nell'era dell'elettronica, e ci darebbe una mano anche per essere molto più chiari e non passare per il giudizio umano, che è sempre sindacabile. Sì, anche perché oramai quel minuto, minuto e mezzo, e lo abbiamo visto anche oggi a Firenze, fisiologicamente si perde quasi sempre quando c'è una decisione contestata, un gol con proteste per un sospetto fuorigioco, il fischio su un calcio di rigore. Quindi a questo punto meglio investire quel minuto e mezzo nella certezza di prendere la decisione giusta. Si può fare anche prima, eh? Si può fare anche prima. Il rugby, come diceva uno ascoltatore circa un'oretta fa, lo fa per altre situazioni, lo chiede l'arbitro e ci mette molto meno, perché basta collegare appunto l'arbitro, che ha già un collegamento audio con, in questo caso, il quarto uomo. Per quanto riguarda la Moviola sarebbe qualcuno in un box più in alto, e veramente con tutte le partite riprese, tra l'altro in HD ormai, quindi con una definizione che permette di vedere l'entrata del pallone, permette di vedere qualsiasi cosa molto meglio occhio nudo, direi che in 40 secondi il tutto potrebbe essere risolto, e nessuno anche allo stadio avrebbe nulla da dire, perché d'accordo che occhio nudo allo stadio può sembrare qualcosa, ma quando si ha la certezza lì che quello che è stato rivisto e giudicato attraverso delle immagini insindacabili, sarebbe molto molto tutto più facile. Sì, resta il punto di partenza di questa nostra chiacchierata questo pomeriggio, e cioè il retroscena che abbiamo svelato su cosa è accaduto ieri nel minuto successivo al gol di Vidal a Torino, che io trovo davvero incredibile e surreale che un quarto uomo e un assistente di linea possano essersi fidati dell'iPad di Beppe Baresi, che poi diceva la verità perché Asamoah era in fuorigioco di un metro, però io credo che a questo punto convenga togliere questo velo di ipocrisia, convenga che quelle immagini entrino ufficialmente nel campo di calcio, che arbitro e assistenti siano aiutati in queste decisioni spesso difficili, magari quella di ieri lo era un po' meno, e così evitiamo anche di lasciare lo spazio poi alle polemiche come quelle di Catania di settimana scorsa. O io provo a immaginare che cosa sarebbe accaduto se davvero Tagliavento avesse anche lui dato retta alla panchina dell'Inter, Guido. Assolutamente, beh, quella della storia dell'iPad di Baresi io onestamente l'ho sentita prima da voi, non l'avevo ancora presa, ed è un assurdo totale, anzi ti dico, io se fossi nelle autorità competenti punirei. Qualche domanda me la farei. Non Baresi, Baresi ha fatto, no, certo, il quarto uomo. Chi lo ha ascoltato, non c'è assolutamente dubbio. Niente, cioè, le regole ci sono, se ci sono, se non c'è l'Insta Replay non è che uno che passa di lì con un telefonino, un iPad, dice al quarto uomo guarda qua, hai visto, e questo dice ah scusa, ma hai ragione, ma non c'è niente, potrebbe essere anche un vigile urbano di quelli che a Torino, a Milano sono in campo per così tenere anche a bada i tifosi, quindi attenzione a questi assurdi all'italiana. Io, tornando e chiudendo il discorso sull'Insta Replay, ricordo che settimana scorsa i Dallas Cowboys avevano praticamente vinto una partita fondamentale per il loro calendario, l'hanno persa per l'Insta Replay, che ha fatto vedere che la meta, il touchdown, era nullo per, te lo posso giurare, 2 centimetri, perché la mano del giocatore cadendo aveva toccato la linea di 2 centimetri, quindi era invisibile ad occhio nudo, sarebbe stato un risultato falsato per 2 centimetri. E invece grazie all'Insta Replay in 40 secondi fai un minuto e mezzo, hanno avuto la risposta. Assolutamente sì, e il risultato è stato quello giusto, quello che poi cambierà la classifica, se non altro dei Cowboys, che faranno fatica ad arrivare fino in fondo a causa di questo risultato. Grazie Guido Bagatta. Un abbraccio, grazie a voi. Grazie a Guido Bagatta, Giuseppe da Milano, Simone da Verona, subito dopo la pubblicità. Vi ricordo ancora i contatti 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi sulla pagina Facebook a tempo di sport trattino radio 24 o su Twitter @ Capuano Joe. Buon pomeriggio, anzi buonasera ormai, Giuseppe da Milano. Ciao. Prego. Ascolta, io volevo fare una riflessione un po' più profonda per quanto riguarda le differenze tra gli sport americani e quelli, certo, italiani. Io sono un appassionato di NFL da una vita, fondamentalmente non è una questione di moviola o meno in campo, è una questione che nell'NFL ci sono 8 arbitri per partita, tutti professionisti, e soprattutto quando anche con l'instant replay non riescono a capire esattamente che cosa succede, nessuno polemizza. Questa cosa qui è fondamentale, noi adesso vogliamo mettere il mio viola in campo nel calcio, ma fondamentalmente c'è una credine dietro che rovina questo sport. Io sì, non c'è dubbio, Giuseppe, che noi siamo latini e da questo punto di vista siamo molto diversi dagli americani, così come è anche vero che le partite dei principali sport professionistici americani durante la regular season sono più un happening che vere e proprie sfide sportive, e questo sicuramente facilita poi nei playoff, il discorso cambia. Io però tenderei anche a non mitizzare questa presunta diversità del mondo anglosassone, perché ad esempio in Inghilterra da 2 settimane si sta parlando soltanto di arbitri, di Chelsea, del suo rapporto con gli arbitri, e hanno polemizzato gli allenatori delle altre società. Quindi quando la posta in palio è alta, alla fine le polemiche sugli arbitri ci sono ovunque. Certo, noi non ce le facciamo mancare, però Giuseppe, io non credo che siamo poi così diversi dagli altri, e poi in fondo di professionisti in campo ne abbiamo 6 anche noi in questo momento, no? No, guarda, io ho visto partite di NFL finire con un instant replay giudicato male, e lì giocano milioni di dollari, certo. Non è che si giocano 2 lire, eppure gli allenatori, i commentatori, il pubblico, nessuno di questi qui ha polemizzato con la malafede dell'arbitro, perché sono professionisti. Quest'anno in America c'è stato il lockout degli arbitri perché non hanno rinnovato i contratti a inizio stagione, dopo 3 partite l'hanno rinnovato, ma non perché sono chissà cosa, perché gli arbitri professionisti... No, certo, perché il surrogato era assolutamente non all'altezza. Esatto, e quindi cosa hanno fatto? Hanno rinnovato il contratto, hanno rimesso dei professionisti e non ci sono più state polemiche. Grazie, neanche, Giuseppe. Neanche con i non professionisti c'erano polemiche, io su questo rifletterei però. Grazie Giuseppe. Simone da Verona, buonasera. Buonasera a voi, sono Simone da Verona. Prego. Prometto di non essere né tifoso interista né tifoso juventino, ma solamente appassionato di calcio. Vedendo però l'episodio successo la settimana scorsa a Catania, l'episodio successo ieri sera a Torino, mi chiedo cosa sarebbe successo se la Juve avesse ipoteticamente vinto 1-0 grazie a quel gol irregolare. Allora, io, secondo me, alcune azioni vengono prese, sicuramente la moviola in campo e quant'altro, anche per togliere dei dubbi che molti tifosi poi giustamente si fanno venire sul fatto che, tanto per dirla in parole povere, la Juventus in Italia stravince, ma in Europa fatica alquanto, forse perché gli arbitri europei non hanno nessun tipo di timore referenziale nei confronti né della Juve né dell'italiano in genere. Quindi sicuramente evitare gli errori come quelli di ieri sera con la moviola in campo potrebbe a questo punto essere utile, sicuramente per sfatare tutte queste polemiche che gioco a forza accadono se una squadra riceve dei favori, magari anche in buona fede, perché non sto qui a parlare di mala fede agli arbitri, però se una squadra continua a ricevere dei favori continui, chiaramente anche altre squadre possono lamentarsi. Dico, per fortuna ieri sera anche dal passato di calcio l'Inter ha vinto e quindi ha momentaneamente riaperto il campionato, però mi chiedo cosa sarebbe successo oggi se la Juve avesse vinto per 1-0 solamente grazie a quel gol irregolare. Credo sarebbe servito l'elmetto per raccontare la partita di ieri sera. Grazie a Simone, e con questo rispondiamo anche a chi scrive con la moviola in campo come farebbero gli appassionati di calcio a trascorrere il lunedì sera, di calcio arbitrato, che evidentemente è una sottocategoria dei tifosi di calcio. Parliamo un po' di ciclismo. Buonasera Pier Augusto Stagi. Buonasera a voi, ciao. Ciao Pier Augusto, ti abbiamo chiamato perché siamo rimasti sinceramente un po' colpiti da quanto abbiamo letto oggi sulla Gazzetta dello Sport, firma Nino Minoliti, sulla vicenda di Vinokurov e della Liegi Baston Liegi del 2010, su cui un magistrato di Padova ritiene di aver raggiunto le prove che la vittoria di Vinokurov su Kolobnev sia stata comprata, pagata 150.000 euro. Scrive Nino Minoliti: non è il ciclismo che è cambiato, è che adesso ci sono pubblici ministeri come quello di Padova che vanno a caccia di mail, di estratti conti da consultare, di intercettazioni ambientali, e il discorso da un certo punto di vista può essere allargato anche alla lotta per il doping. Non c'è un po' di tentazione di autoassoluzione? E il ciclismo da questo punto di vista invece è uno sport che sta facendo molto i conti con i suoi vizi. L'argomento è delicato. Io penso che Nino Minoliti abbia voluto comunque porre l'accento almeno su una cosa che in un linguaggio non scritto che moltissimi sport hanno, in modo particolare quelli di fatica, in modo particolare il ciclismo, che è un ciclismo pedalato ma anche molto parlato, perché è fatto di strategie, di intese, di alleanze, che non per questo devono essere remunerate, perché semplicemente perché puoi trovare un accordo con un atleta, perché in quel momento gli va bene darti, dare una mano a te per poi avere un beneficio anche lui, magari perché guadagna 5 posizioni in classifica generale, quindi ha tutta la convenienza per darti una mano. Quindi è uno sport particolare. Allora non bisogna, come dici tu, non bisogna cadere nell'equivoco che così si è sempre fatto, allora si va avanti a farlo. Assolutamente no. A maggior ragione c'è una legge antidoping dal 2000, c'è la magistratura che adesso ha una legge dove può a tutti gli effetti anche andare a guardare nei conti correnti se c'è il caso e c'è l'argomento. Se ha il sospetto che ci sia stata una frode sportiva. Cosa penso io di questa vicenda? Che se un corridore, come cita Nino Minoliti, Rino Negri, un grande storico del ciclismo, soleva dire che chi decide di fare chi vende una corsa lo fa perché sa di essere battuto. Lo fa perché sa di essere battuto, e non è un gioco di parole così, perché cerca di monetizzare a tutti gli effetti la sconfitta. Ai tempi di Coppi probabilmente ci si accontentava di qualche oggetto in natura, ai tempi negli anni 80 probabilmente di qualche cucina, di qualche divano. Oggi si arriva addirittura a lasciare dei passaggi e tracce con bonifici bancari e SMS. La cosa non è bella, soprattutto per un fatto molto semplice, che viene tra l'altro da un atleta che oggi ha anche, intanto ha un passato ingombrante, che è quello di Vinokurov, che ha comunque 2 anni di squalifica alle spalle per un illecito sportivo gravissimo. E poi ha quella medaglia d'oro olimpica che imbarazza. Esatto, in più adesso c'è una medaglia d'oro olimpica al collo, e la cosa fa venire i brividi. Allora uno dice molto semplicemente: occhio non vede, cuore non duole, e gli sportivi sono degli innamorati, io per primo. Allora, se c'è un'intesa tra 2 corridori, perché a loro sta bene per così, perché spieghiamo, Vinokurov e Kolobnev sono arrivati a giocarsi la legge bastardiere, loro 2. Probabilmente Kolobnev sentiva dentro di sé le mancanze di energie, e a maggior ragione l'intesa, e questo è da sempre avviene così, si trovano degli accordi, perché Kolobnev dice: se io non collaboro con Vinokuro probabilmente mi può anche staccare, così non arrivo neanche secondo. Non arrivi neanche secondo. Esatto, in quel caso lì io monetizzo, però certo la cosa è imbarazzante. Adesso quando cosa facciamo? Andiamo di bianchetto anche sulla Liegi Baston Liegi? Esatto. Il problema è questo, adesso la posizione ancora più imbarazzante ed è ancora più grave, secondo me, è il fatto che il governo mondiale della bicicletta, come hai detto tu giustamente, il ciclismo sta facendo molto tanto per cambiare, è arrivato addirittura a far cadere il mito dei miti a scoppio ritardato, devo dire, con grave, e forse qui bisogna interrogarsi, no? Perché a me non piace neanche tanto cancellare, io il nome di Lance Armstrong l'avrei lasciato nell'albo d'oro con un bell'asterisco per ricordare agli sportivi e a tutti che cosa ha significato Lance Armstrong nell'albo d'oro, perché poi il Tour de France, che gonfiano tanto il petto, ci devono spiegare perché non hanno cancellato il nome di Bjarne Riis, certo, perché non è stato cancellato quello di Arur. Però è anche una spirale senza fine, ho l'impressione, perché a questo punto cancelli Armstrong, cancelli Vinokurov, cancelli l'ultimo oro olimpico, cancelli magari tutta un'altra, per indegnità, io non so sotto quale etichetta, cancelli tutta un'altra carriera, e non so che cosa resta del ciclismo degli ultimi 20 anni, se poi non vuoi cominciare ad andare anche più indietro. No, ma se vuoi andare più indietro, ragazzi, ci sono delle testimonianze, una battuta. Fausto Coppi lo ammette, chi non ha mai preso una bomba, dice in un'intervista famosissima radiofonica. Allora cosa facciamo? Prendiamo Fausto Coppi e diciamo che non è stato il più grande, diciamo che Eddy Merckx non è stato uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, ma non la finiamo più, perché allora se poi andiamo negli altri sport, atletica leggera, nuoto, lo stesso calcio, no? E ci sono dei titoli mondiali vinti dichiaratamente, l'Inghilterra ha vinto un mondiale solo e l'ha vinto appunto con un gol che il pallone non ha mai varcato la linea. Diciamo che l'importante forse è mettere un punto, io credo. L'importante è avere limite... poche regole, la verità è che qui continuiamo a fare i manifesti, i codici etici, invece è esattamente il contrario, poche regole ma decise, chiare, forti, inequivocabili, la radiazione. Però non possiamo continuare a prenderci in giro, quello è il mio amico, lo proteggiamo, poi cadono gli amici dei miei amici che ti proteggevano loro Armstrong. Ed emergono tutti gli altri. Da qualcuno è stato difeso. Nel 99 qualcuno ha denunciato delle malefatte di Armstrong e moltissimi hanno taciuto, l'hanno difeso, l'hanno giustificato. Allora qualcuno se ne deve prendere la responsabilità oggi. Così come Lucy, torniamo al discorso di Vinocuro, la notizia lanciata in prima pagina del Corriere della Sera. Sì, non era una novità perché ce n'era già traccia da qualche inchiesta giornalistica svizzera di qualche mese fa, quindi vuol dire che non, di sicuro non sono caduti dal pero. 6 dicembre 2011. Ecco. Quindi 6 dicembre 2011 è uscita un'ANSA che dava questa notizia ed è stata rilanciata su tutti i siti e molti giornali del mondo. L'UCI, cioè il governo mondiale della bicicletta, non ha mosso dito, dicono ma noi non possiamo fare nulla se non abbiamo prove. Ma farei un esempio, rispondo a l'UCI che probabilmente non ci segue, però per far capire come sono bizantini quando vogliono. Quando vogliono però l'UCI va a prendersi le prove. Per il caso dell'operazione Puerto a Strasburgo, quando il Tour mandò via Ulrich e Basso, tanto per citare due corridori più importanti nel 2006, l'ASO, che è l'ente organizzatore del Tour, subì grossissime pressioni da parte dell'UCI. Se vuole l'UCI Può intervenire. In realtà in questo caso non ha chiamato neanche i due corridori, non ha sentito le federazioni. Sì, ma è mancato il minimo sindacale di inchiesta. Pier Augusto, ti devo salutare che c'è il traffico, grazie. Niente, ciao. Grazie a Pier Augusto Staggi, traffico. Intanto ci accusano di cercare con la lente di ingrandimento soltanto gli errori a favore della Juventus. Evidentemente non ci ascoltano. Massimo da Como, buonasera. Buonasera, prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Beh, guarda, io sono un tifoso di Juventino, però devo dire che mi fa male dover ammettere di aver vinto a Catania come abbiamo vinto. E meno male che ieri sera abbiamo perso, perché sennò sarebbe stato veramente brutto sentirsi sempre dire siete una squadra di padri. Sì, io credo sia un sentimento condiviso, Massimo, questo. Ho letto qualcosa anche su internet. Noi non abbiamo bisogno di questo, noi siamo una grande squadra, l'abbiamo dimostrato, tutto quello che vuoi, abbiamo pagato per i nostri errori se li abbiamo commessi realmente, ma noi siamo una grande squadra, probabilmente ieri sera ci è mancata questa convinzione, la convinzione di essere comunque sempre una grande squadra. Guarda, c'è stato, non mi ricordo più il nome, di un grande giocatore di pallanuoto. Sì. Che poi è diventato anche un dirigente dell'Ecco, non mi ricordo il nome, scusatevi, ma lui ha detto una cosa molto importante. Eraldo Pizzi, suggerisce Dario Ricci. Esatto, lui ha detto una cosa importantissima: gli arbitri sono delle persone che devono essere messe da parte per non nuocere, cioè una grande squadra non deve basarsi su degli episodi, certo, ma deve sempre fare un gol più degli altri. Grazie Massimo. Grazie Massimo da Como. Luca da Milano, buonasera. Buonasera. Rapidamente che poi passiamo al basket. Volevo intervenire rapidamente sul discorso Moviola. Sì. Io sono sempre stato contrario alla Moviola in campo perché sono un romantico e quindi... Del calcio imperfetto. Esatto. Poi in realtà però credo che sia una cosa assolutamente inevitabile a questo punto perché gli errori sono veramente troppo gravi e troppo frequenti. Però perché la cosa abbia un senso pratico... Sarebbe necessario che si utilizzasse questo meccanismo con delle regole che limitino l'applicabilità esclusivamente ai casi che poi con la Moviola possono essere una casistica, quindi, non per ogni fischio, certo. No, perché sento dire della possibilità per l'allenatore di invocare la Moviola n volte durante a tempo. Io credo che debba essere estremamente chiaro che si applica solo nel caso di fuorigioco sì, fuorigioco no, palla dentro, palla certo. Fuori. Certo, e soprattutto possiamo anche lasciare, Luca, e la ringrazio, la scelta direttamente all'arbitro e ai suoi assistenti, e saluto Dario Ricci, che che ci ha raggiunto per chiudere Giovanni, con la pagina della pallacanestro. Saluto anche Flavio Portaluppi, general manager dell'Olimpia Milano. Buonasera Flavio. Buonasera a tutti voi. Perché anche nel basket, in fondo, alla fine sono gli arbitri stessi che decidono e hanno deciso quando andare a vedere su quello schermo, ad esempio, se il tiro scudetto di Bologna era buono o no. Io non riesco a capire perché questo non si possa fare invece nel calcio, oppure si continui a fare, e abbiamo raccontato che cosa è successo ieri a Torino, ma l'importante è che non si dica. Flavio Portaluppi, invece, che cosa non si dice del momento di difficoltà di Milano? Domani sera contro Siena, la prima sfida, potrebbe anche essere l'antipasto della sfida che ci trasciniamo per tutta la stagione. No, del momento difficile di Milano, delicato, si dice più o meno tutto. Sicuramente si dice che rispetto alle aspettative di inizio stagione abbiamo iniziato con marce molto basse e ridotte, abbiamo già 3 sconfitte in campionato e 2 in Eurolega, e sicuramente è un momento, insomma, particolarmente delicato, anche perché davanti nei prossimi 4-5 giorni abbiamo la sfida di domani, come ricordavi bene, contro Siena, e poi quella contro i campioni d'Europa in Eurolega, per cui sicuramente un programma abbastanza denso. Sì, e soprattutto già un momento di piccola svolta di questa stagione. Io mi rifiuto di credere a quello che ho letto, addirittura di Scariolo, che in qualche modo possa essere in dubbio, e con Scariolo tutto il suo progetto, però è anche vero che Milano deve cominciare a dare da subito delle risposte, soprattutto in Europa. Ma rispetto a queste voci, comunque la società, per bocca del presidente, si è espressa. È chiaro che è un momento delicato, ma Sergio non è assolutamente in discussione. È chiaro che c'è bisogno comunque di una svolta. Siamo tutti chiamati al massimo sforzo per riuscire a rimettere in piedi il più rapidamente possibile una stagione che non è partita sicuramente rispetto alle aspettative che avevamo in maniera adeguata. Dario. Flavio, si affrontano le due peggiori difese dell'Eurolega. Mi sembra che questo sia un dato statistico emblematico per dare il senso di quanto sia Siena che Milano, per motivi diversi, ma per alcuni aspetti anche tangenti, siano due cantieri aperti, no? Sì, sicuramente guardando in casa nostra la difesa è uno dei punti su cui dobbiamo lavorare, migliorare e crescere rapidamente. Concediamo troppi canestri facili anche per disattenzione, e sicuramente nelle collaborazioni non abbiamo ancora i meccanismi oleati abbastanza per poter tenere botta e resistere. Ho visto la partita di Siena contro Scialoni, invece, per guardare un pochino in casa degli altri, devo dire che hanno alzato molto i ritmi. Io onestamente l'unica partita che ho visto, a parte la Supercoppa contro Cantù, ma che ormai si perde nella notte dei tempi, di Rimini, quindi di inizio stagione, loro hanno alzato molto i ritmi, hanno allungato molto la difesa, hanno concesso anche e subito qualche canestro facile, ma anche qualche canestro fortuito, per cui hanno giocato con grandissima energia, tirando anche rapidamente nei primi secondi, quindi aumentando i possessi sono aumentati anche i punti subiti. Devo dire che comunque tutte e due le squadre penso in questo momento nella fase difensiva abbiano qualcosa da aggiustare, da sistemare, un equilibrio da trovare. Domani conta più non perdere o conta dare un segnale, cioè dare il segnale che questa squadra, al di là del risultato, è una squadra che ha ritrovato, può ritrovare la sua anima? Ma penso che il segnale giusto sia quello di una vittoria, perché comunque il campo di Siena è sicuramente un campo difficile da violare, e di conseguenza il segnale giusto potrebbe essere quello, non tanto vedere del bel basket, una bella pallacanestro, ma anche brutti, sporchi, ma vincenti. Flavio, ti chiedo ancora, credi che la querelle che con Siena si sta sviluppando anche a livello di procura federale, con esposti, accuse eccetera eccetera, vi abbia tolto qualcosa dal punto di vista della concentrazione, dell'attenzione, sia stata in qualche modo anche logorante sotto questo punto di vista, o sono due piani che la squadra riesce a mantenere, la squadra e la società riescono a mantenere ben distinti? Sono due piani assolutamente distinti, la squadra non è stata per nulla coinvolta, e di conseguenza penso che la mancanza di risultati sia essenzialmente determinata dalle nostre cattive prestazioni, dal fatto che, come ricordavi pochi minuti fa, siamo un cantiere aperto e stiamo cercando di trovare i nostri equilibri, i nostri meccanismi giusti. Alla luce di questo avvio di stagione, un cantiere che deve portare dove? Cioè, confermato il progetto che, diciamolo sinceramente, quest'anno vuole Milano, se non favorita, comunque certamente obbligata a giocarsela fino in fondo? Ah, chiaramente l'obiettivo, guarda, io ho avuto la fortuna di sposare per tanti anni il progetto dell'Olimpia, prima come giocatore, poi adesso fortunatamente per me come dirigente, e ricordo che nei momenti di splendore della Milano, che poi ha vinto l'ultimo scudetto 95-96, come negli anni successivi in cui dopo due stagioni, la stagione che abbiamo giocato i quarti di finale di Coppa Campioni, della loro Coppa Campioni, però ci sono stati dei momenti bui, a Milano si è sempre partiti con l'obiettivo di essere protagonisti e di provare a vincere, e quindi questo obiettivo rimane ancora più fermo che mai, anche perché il progetto di Armani è un progetto che ormai è in piedi da anni ed è giusto provare ad essere competitivi, vincenti fino alla fine. Poi dopo riuscirci non è mai facile, c'è chi ci riesce per tanti anni di fila come ha dimostrato Siena, e c'è chi invece come Milano è da un po' di anni che non riesce a vincere. Grazie a Flavio Portaluppi. Grazie a voi. Grazie a Flavio Portaluppi, general manager dell'Olimpia Milano. Siamo in chiusura dei secondi periodi. Rapidamente i risultati: Brindisi vince 37-26 a Sassari, Cantù avanti 27-20 contro Avellino, Bologna 33, Biella 34, Venezia perde di 19 contro Montegranaro, Roma sta vincendo 40-32 a Cremona e Varese 40-34 contro la Juve Caserta. Di pallacanestro torneremo a parlare alle 20:30 in Palla Spicchi con Dario Ricci, che saluto. Poi alle 22:45 tempi supplementari con le voci del posticipo Roma-Palermo di calcio di questa sera. Io ringrazio Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni e Roberto Scaltriti che si sono alternati alla parte tecnica. Lo sport torna anche domani alle 14 con tutti convocati con Carlo Genta. Un saluto da Giovanni Capuano.